e io non ci sono andato. Quindi adesso va bene, riprendo subito. Eia, già ci vuole, già ci sta un defatticante rosso, un defatticante buono, andava bene, e poi vedi che finse che la memoria comincia a viaggiare, diventa in 44 giga diventa. La ripreso io, ogni tanto a mezzodì dai, ma niente, servimo un bel rossino, piano piano. E pure i parti non ne vivo a chi è un casino se no i vecchietti non ne bevono a chi da voi tocca mangiarsi mezzogiorno con la bomassa, ho fatto un cugone con la bomassa e allora se ne viene una fiacchetta e allora finite ciò che c'è tempo già finite. Tempi che furono già tu buccione già facciamo il burro e una bussata se ti devi guardare sei tu sì, a quello già è vero, però voglio dire mangiando ai fatti già ci sta un bicchiere già ci sta e fa bene dai, già si fa colazione, come sta funzionando il sistema e si fa anche da digestivo, va. Ehi, mangiando e bevendo pure se ci sta, cosa? Oi oia, Franco, vecchietti, si sei vecchio tu. Si sei vecchio tu, cosa avevo io di Zubantareo che veniva da me a Cugircolo, a questo dor. 91 anni. E giocando a calci, vera, Edo. Per la Zubantario, Zuba Inzu, Zuba Francisco e poi per Antonio Ariddu e ti giocava a Mariglia, venivano alle 10 e andando a mezzogiorno e mezzo pigliavano i composti, non è che si componevano più di tanto, un litro di se lo facevano in cura, non venne di soli. E gli disegnano, ma birra, no, noi non ne beviamo birra, noi beviamo vino rosso buono e quindi poi andiamo a casa che ci abbiamo fame e sono muti e ti posso dire una cosa, avrà Giovanni Zubantario sono muti a chi sono caggiuti nel futuro gabbo, sono caggiuti ma no a chi è embriachi, sono caggiuti a chi è vero marciapiede in fasciato. Sono morti a differenza da un anno all'altro, sono sbagliati. Che sono caduti in un marciapiede, andando a farsi le passeggiate in piazza. A chi se no erano stati ancora vivi, magari vivi no, però avevano campato 30 anni. E c'era signor Francesco, però Zio Francisco, dice sempre, io non ho mai pigliato una cucina povero di capo, mai. Quando avevo mal di testa, bevevo l'acqua vite e passava e poi diceva mi imbriacavo, no, però mi passava, acqua vite buona e mi faceva bene. Queste qua sono le cose essenziali, non bisogna bere porcherie zuccherate, limoncini, mirti, queste cose bisogna mollarle, bisogna bere distillato in vino rosso, vai Gianni. Non aveva nessun problema, e quello è bello, quando uno aveva la società così, bellissimo, a chi continua la vita come te l'ha sempre fatto. Avete parlato in due, non si è compreso nulla, vai Franco. Capo, hai detto che quelli non avevano problemi di niente, non avevano, erano sani e hanno continuato la vita come l'hanno sempre fatta. Ed è bello quello, ho detto, è bellissimo perché nessun disturbi vuol dire che quando sta bene una persona è a arriva a quell'età è micidiale, è bello, è bello. Avanti Gianni. Stavo dicendo che quando il vino, come ha detto Calvino, chi se bello il rubone non è garaffa, tagli 3-4 bischi, lasci appena appena tra un frecco e un mese uno frecco e ui, quando gli aveva preso il vino mi ha dato la bassa sotto e tatticatic così va la tutta la garaffa, mi ha dato di mangi mezza berra di bischi. Benemente coro bella mia, e già l'ho fatto già. Noi chi... quelle pesche, però li tolgo la buccia, con le pesche gialle. Sì, nella caraffa da mezzo litro ci metti, tagli una pesca, la metti dentro, però ve la devi lasciare un paio d'ore, noi vi porri un bisico, non lo lasci un paio d'ore e va, ed è buono. Aspetta che mi stanno chiamando, vai Franco. Lo so che è buono, la facevamo sempre, me la facevo sempre io, naturalmente le pesche non quelle comprate dal supermercato, ma quelle nostre, anche raccolte dall'albero. Bonari diso che si pesche gialle nettarine, uiuia, gli danno un sapore, una fragranza micidiale. E ci sta anche a pranzo un bicchiere di quello così. Ecco, sì. Vabbè. Uiuia. Aspetto che viene Gavino, poi me ne vado, perché devo scendere giù nel burro, la stufa nel burro, prima di bagnare attento. Eia. Ah, hai visto il Facebook che Dom Anziano ha bisogno di viaggiare 72 anni, certo, tutto fuori i gabu camminando, andando in barobacolo, l'ha detto io, piano piano, e così andando, ma era la Siviria che era sano che sono. Il problema è che andando va a cacciato. Però lui ha detto che nel suo percorso di vita, ha detto che quando mangiava, non mangiava a sangue dura, dice si buttava a mangiare, piano piano, massaggiava bene, e se uno vitalizia, non vitalizia più. Ha detto, no, si abbuffava, ha detto, la robusto badì di mangiarsi questo di garrempioni, non ne mangiava, e ha detto, da cui si mangiava badì una frutta un più curi. E niente, perché c'era il video di questi centenari dei paesini, di Rumorese, di Oriena, di Sirubi, e ce ne sono tanti, sia uomini che donne. L'ho ripreso, eh? Cappa. Sì, già, ce ne sono tanti. Io ne ho visto uno da poco, che era in campagna, che li ha intervistati. Sì. Ah, quelli gente che ha vissuto una vita in campagna e sono capati più bene, dai, più sani, mangiano tutta roba sana, perché hanno sempre mangiato roba sana, roba che coltivavano i edi e tutto. Chissà niente, quando i cucini non compareggia nulla dal supermercato, non compareggia. Ma con i macaroni compareggiano, a chi si la base in Ede, si la base in Ghibi, tipo la zona di Oliena, Forni, tanta questa zona di Ghibi, Nuoro. E purtroppo i cucini vieni. Avanti, capì? E allora, quelli... diciamo che di lì c'è ancora l'usanza di fare la pasta in casa, coltivano la roba, c'hanno l'orto, e poi bisogna anche saper mangiare, per esempio se tu guardi le arrostite di quei posti non manca mai la verdura a tavola, è consigliato. Uno si può prendere e fare anche salsiccione arrosto, però accompagnato dalle verdure. E poi usano la farina buona. trattano quando vanno di tosse, quando vanno di minestra, quando vanno di queste cose così, trattano in farina buona, no in sabbucaria 00, perché quello che fa male è la farina 00, quella ultra lavorata, e cioè la farina di semola. La farina di semola e poi la lievitazione naturale. Anche questo che fa di male è più lievito. E va bene. E quando si faceva, fra forse tu l'hai conosciuto più di noi, che prima si faceva il pane in casa e durava anche una settimana. E dopo una settimana era ancora buono perché lo coprivano i vermini di prima, da sabbiani e rimuni, pure la roba da magna. Allora pigli, no questo è, ma c'ha due giorni, cosa ne fai? Lo vedi che è duro. È duro, sì, perché sono alimenti trattati e vanno automaticamente a avere una scadenza, Però prima la scadenza, cosa viene? Non veniva. E poi su questo campati così un bel. Era proprio uno stile di vita diverso. Aveva tutto tanto cibi processati, cibi straelaborati, bucaria, non lo so, tutto, a voi visto di mollare in l'aria, di tutto visto, pure si tira bianti dura roba, no? Passano questi quattro miserabili e dassano questi scie chimiche, questa roba che arrivi a terra e con la verdura che ti che va, anche la verdura che vai a piantarti tu. Diventa, non è roba sana, dai. Ti sto ammazzendo. Non vi sono rivisciti con il Covid, ma ti sono mullendo questa roba dal lascio e paccare dai. Vai, ma devi chiudere Fra, o ti rilancio? Rilancio a Franco, dai, se devi chiudere rilancio a lui. Ehi capo, sì, io poi me ne va. Stavo dicendo, guarda, io ti dico una cosa, che a casa il pane lo faceva mamma, lo faceva Babiaro, che aveva fatto Barruforno, lo faceva in casa, durava una ghida, ogni ghida faceva un pane, faceva, e non comprava mai pane. La farina, babbo, quando faceva il seme, il grano, lo portava a Sassari, a Santa Maria, a Santa Maria, lì all'entrata di Sassari, e lì c'era dove macinavano, facevano la farina, importava il grano e faceva la farina, e a sacchi, avete due quintali alla busa, se ne fazia va, e rubava, fa farsi rubare. Poi tutto il resto era tutto in sarada, tutto canto, tutto in vera di sarada, tutto canto, di cose dall'usto. Babbo piantava tutto, piantava, perché, e non comprava mai nulla, dare negozi su frutta e verdura, cosa così, non comprava mai nulla. Avevamo tutto noi, avevamo. La carne avevamo noi, pochetti, avevamo i giardini, avevamo i polli, avevamo di tutto, conigli, di tutto avevamo. Per ora di un po' così. Ah, ma a me siamo comparenti, noi siamo comparenti, però babbo e mamma non ha mai comparato, mai di questa roba non ha mai comparato. E allora, ma perché prima la cosa si produceva, adesso c'è la comodità, vai al supermercato lo compri, però non sai cosa sei comparente, ma carità. Per carità, a volte mia moglie porta mia figlia di lì, perché io non vado, io quella roba non la mangio, o vanno al McDonald's, oppure se ne vanno a cena, se ne vanno a mangiare il sushi, a mangiare queste cose qua, perché a loro gli piace, vedi che sono i puliti, io non faccio di vini e non li mangio, non è che sono ignorante, ma perché proprio non mi va, secondo me è un vizio che non fa, perché se mi dice andiamo a mangiare cosa ne so, in agriturismo sono il primo che dico sì andiamo, però a me questi bucari, questi vizi di sushi, McDonald's, tutte queste porcherie a me non mi vanno bene, a me non, io sono contrario, ma proprio sempre stato contrario. anche da ragazzo, preferivo sempre una pizzetta al taglio o una teglia di fenè, piuttosto che andare in questi fast food, queste porcherie varie. Bah, comunque, ma perché poi alla fine paghi lo stesso, eh? Poi alla fine la cifra che spendi è, so, magari desidero e manco dell'agriturismo, poi un agriturismo, porca miseria, ti mangi un piatto di cosa, vatta da Ede, ti mangi, è diverso, è diverso. In chi vedete voi sta a mangiare roba congelata 6 mesi fa e e chissà non di livello. Boh, non lo so, comincio a parlare comunque. Vai Gianni. È vero, come ha detto Franco, perché prima quando c'era la pastorizia e c'erano i massai, c'è chi per esempio aveva gli allevamenti di maiali con le galline, tutto il riso, poi c'era quello che piantava il grano, l'orzo, il mais, e quindi si ricambiavano anche i favori uno con l'altro. Quindi la roba da mangiare era più sana sia che era tutta tanta roba auto, come si dice, autoprodotta, prodotta dal terreno, dai contadini, e le donne sapevano fare bene il loro mestiere della cuoca, del rugoso, erano le padrone come sono tuttora, la padrona di casa era femmina che conserva tutto, sa lì come giostrare tutta la situazione, mentre tipo il marito andava a lavoro nei campi o nei pudiri. E la cosa era più sana, che i padini la sera duravano i da travagliare, si bagnavano un pezzarello di lardo, cosa ne so, qualche verdura, un bicchierino di vino, ed era ne a fuso. Invece adesso, come hai detto tu, con tutti questi cibi processati, lavorati, che non sai manco da ne è fatta la farina, che chi due, chi l'altro, è ovvio che alla fine, se tu hai notato, quante persone ci sono celiache che sono intolleranti alle farine, che il vissuto di adesso è strano, è particolare, anche ci sono tutti tanti, è facendo prima comprare silo che non a piantarlo, il discorso è pure visto, e quindi non c'è più la volontà di una volta, vero Franco? Certo, ma è così. Vabbè, io ho visto, tanto ti hanno già mangiato un poco pane l'altro, e pane fumata, oia. Vabbè, erano altri tempi, però erano tempi belli, i migliori, per me erano, i migliori. Beh ragazzi, io vi lascio che vado a pulirmi la zuppa, ci sentiamo magari dopo, dai, o più tardi. Ciao, buon pranzo quando lo fate, buon tutto, se ce la riascoltiamo. Ciao Gavino e ciao Gianni. Riprendi Gavino e fai girare. Yes. Deus usa mere, Deus osa mere, si chiamava Mere, le padrone di casa. Marito mio, andate a riballare, Deus osa mere, lui te deo greco soffiso, so. Quindi è così, ed è giusto. Va bene Franco, io stasera non entro, magari riuscirò ad entrare dopo cena, se ci siete. Però stasera sono super inguaiato, adesso mi preparo qualcosa, così quando arrivano loro pranziamo a Buildish. E ci sentiamo stasera se coincido, altrimenti domani. Ciao Fa, buon pranzo a te e a quel familiare. Vai Gianni. Scappa. E appetito Fra, buona ricarica, buon tutto e... Se magari coincidono gli orari già ci sentiamo, dai, se no già ci sentiamo prossimamente. Va bene così, dai, appetito, tante cose belle, è buono. Ciao Franco. Ehi, ciao. Guarda Gaffi, io quando noi abbiamo parenti a Nusi, eccetera, e quindi io da piccolino, quando andavo con questo zio che si chiama Monte Alma, e andavamo poi alle campagne, ero poco contento io, E a me piace poco l'odore della campagna e del gol. E poi mangiavi roba sana, maialetti, agnellini, fagiani di zizi, di gozzi. Era diverso da come qua. Sì, anche qua era bello perché qua come coso noi avevamo il pescato, diciamo, noi eravamo più abituati al mare, però loro abituati in montagna che mangiavano formaggi, questi gozzi buone. Guarda, io ero un pizzino in Ghibli, quando andavo via in Ghibli ero un orzo, cubarino nel mondo delle favole. Già, ci credo. E tu pensa che dalla parte di mia madre sono di Buttida, capito? Mia madre è di Buttida, anzi mia nonna, mia madre e Natali, poi sono venuti qua a Porto Torres. Però ogni settimana quando ero piccolino, quando ero ragazzino, scendevamo perché ammazzavano, loro avevano i maiali, non facevano, avevano i maiali allo Stato Brado che gestiva mio zio, e poi mio nonno scendeva di lì per pungere e fare tutta la situazione. Ed era una ghedda di vista, era una ghedda quando si faceva questa operazione qua, perché erano tre scroffe grandi, e ne avevano due o tre grandi sempre a giro, fazziani da garri, sassista, cose, in chi vi, tu pensa chi, eravamo 22 bambini, 22 era il più grande, io avevo magari 7-8 anni, il più grande ne aveva 12, quindi erano tutti cugini, dai, zii e cugini, che però più o meno tutti della stessa età, dai, differenza di 5-6 anni dal più grande, dai, più piccolo aveva 3-4 anni, però, che era mio fratello. Però erano i 22 bicinetti in cui viveva un disastro infinito, era una vita infinita, buravano i giaffi e culiviti e bozzi, era 24 ore su 24, però era bello perché ti divertivi, era ridu, perché poi mio bisnonno dalla parte di mia madre era cantoniere, no? E quindi questa roba veniva fatta tutta quanta nella cantoniera di Tirso. E quindi c'era il coso di vedere Alitorina, Bassen, di vedere proprio la casa era attaccata alla ferrovia, noi vicini di Inchiva, stava meno treno, dai, era belli, erano begli ambienti, e ti ripeto, poi in campagna aperta lì era uno spettacolo. Roba che questi ragazzini di oggi non credo che conoscano, già io sono stato fortunato a aver conosciuto, perché non tutti già hanno conosciuto una certa armonia così. Ed era roba bella, belle giornate, capita. Eh sì, perché come dici tu immaginati che noi quando andavamo nel periodo di festa a Nulvi, che c'erano i candelieri, facevamo una settimana lì, cioè dormivamo lì perché ci avevano tipo magari il pozzo che aveva magari la soffitta fatta per dormire, poi rimaneva tipo il periodo di Ferragosto, quindi c'era caldo, si stava bene, e uscivamo al giardinetto, andavamo lì a quella fontana che c'era, poi magari alla settimana successiva c'era tipo l'altra festa dei trattori di Sant'Isidoro, che andavano al caseificio, e noi eravamo lì tutti i ragazzini. Però era diverso perché l'ambiente, quando tu uscivi al giardinetto, cioè trovavi tutti i ragazzini della nostra età, come tu, 7-8 anni, 10 anni, 12 anni al massimo. E poi trovavi le persone, quelle un po' più grandi, che magari quelli lì ti dicevano, io ci andavo di là, per esempio così. E noi li buoniamo pure un po' con gambo, che anche nel nostro piccolo rimanevamo un po' intimoriti, nel senso, quindi scadiamo in giro, vicino, ovvero via di netto, tutto quanto. Ed era bello perché c'era un'armonia diversa di adesso. Adesso tu se esci ai giardinetti o esci da qualsiasi parte, non è che io viene ragazzini in giro, né giocando con bicicletta, né cosa ne so, né con la bicicletta. Era diverso capire, noi magari lo possiamo raccontare a chi magari più o meno siamo di un certo tipo di passati anni, però la nuova generazione di adesso sono tutti un po', boh, non lo so, con l'accusa di fare tutta questa tecnologia, invece noi abbiamo vissuto il progredire della tecnologia, cioè dal non esserci niente a vedere un qualcosa che poi dicevi ma è fuori testa, è pure solo, però poi continuavi sempre a giocare con le cose tue perché erano diverse, se ne staccava a badista Ivi con il Walkman, con la gazzetta, con la radiolina, ti piace andare in giro giocando a pallone, correndo, cagendo la ginocchia a terra, mi ha dato una mazzata da essere che avrei bantarone, buh. E quindi c'era un'armonia differente, noi si può dire abbiamo vissuto lo dopo della situazione, perché poi ti facevano un giro in macchina e eri contento, va ne ma con era frutti nuda, più a nessuno, e quindi è diversa, la canzone è diversa, come hai detto tu, e quindi c'è un altro ritmo che è diverso, ed è quello che sta un po' combustolendo. Poi non parliamo di Gubernia, che prima Raventini non era più quasi da nessuno, tanto i sindaci e le cose avevano un altro modo di fare, sono abbagliati dal soldo, da Guido, dall'acqua, e quindi non ha più nulla da nessuno, né di Baisano, né che ha bisogno, né che non ha bisogno, tutto lì. Okay, dai. Per carità, io a volte dico porca miseria, chissà che fine avranno a fare tutti questi ragazzi, ma vabbè, i tipi stanno cambiando in peggio perché, cioè, ma guarda, adesso non so se tu l'hai sentito al telegiornale, ma ci stanno mettendo a rubare bambini. Cioè Guido Romeno si è attaccato alla bicinetta, al rubicinetto di una femmina scende dal supermercato. Chi d'altro non so cosa ha combinato, un negro ha pigliato di quelli a Varabiti una bicinetta, una dippa. Non, io quando ho sentito quella notizia ho detto no che è vero quella pigliare. Qua ci vuole già. Quando devono prendere, vuol dire, fai una sorta di esame, una sorta di patentino, uscire con la pistola. Perché, voi volete portare questa gentaglia, portatela, cioè, la portate, però vi vuole la pistola. Io voglio avere la pistola, perché se mi aggrediscono, oppure vengono, ti attaccano di rapita, tu migliora. È un disastro, sta diventando un disastro. Vivo l'AIMA. Ci vuole l'arma, secondo me devono dare la libera vendita alle armi, logicamente fai un esame, un qualcosa, però porto l'armi per difesa personale, anche i clienti, tu dici diventa un bronze, vabbè, però usi, c'è il giro fuori di campo, fuori nei bicinetti, lo vedi che i tempi stanno cambiando in peggio, vuoi diradi, oppure prendi, fai una cosa del genere, ti trovo. Ti do la pena di morte, la pena della puntura senza sede elettrica, una puntura, prendi e muri. Vedrai in Italia dove vengono i biulisi. Ma infatti di così, no, l'ho seguito anche io quei casi, cioè la guida scende dal supermercato e che magari ha avuto un po' di prontezza che poi alla fine sono intervenuti e il capo della disabilità era toccato un femore e l'altro l'ha detto questa non è tua figlia e veniva voi a bigliare, cioè ma ne siamo andati come se tu dici una passata di bistura o una passata di motosega direttamente da voi dici omicidio colposo se si la seccando per quando mai o per qualsiasi motivo che se ti vuoi adorare un paese Gesù o paligo o parlato, cioè tu fai una malefatta di quel genere. Oh, io che secondo me era caldo tipo quartiere americano come ti dico, vedi a vedere, manco zuppa quella rimasta qui. Visto che l'avevano detto quanto fatto a pezzi, se l'avevano cucinizzare il buco. La buia è stata adesso che se ne ha fatto quello straniero, il buco si è più visto in giro. Paese suo è andato. Sì, preso e fatto sparire. Vogliono prendere, infatti quella gente vuole fatta sparire. Ci sono questi perbenisti, questa gente, questi schifosi, questi pidiotti maledetti. Chissà l'iro che v'è per quanto riguarda l'accoglienza, chissà il giro di magagna che c'è, perché questi qua sono troppo affrettati all'accoglienza, troppo. Vabbè che stanno perdendo anche, cioè non hanno più credibilità, il Partito Democratico ormai non ha più credibilità di niente, vale gatte di 3.000 franchi, non vale a nulla. Dai, gentaglia, quelle sono proprio zecche, quelle del PD fanno schifo. Io sento certi discorsi, certi ragionamenti da questi qua, dico ma possibile mai che un saibeddu è di Bolzano in televisione? È il bello che l'Italia va male perché c'è gente così che la pensa come loro, c'è gente che l'Uzebedu va una bancarella di giocattoli, diventa l'Uzebedu, va nei noci di cocco e gioco dentro una con l'altra. Ma quando mai? Cioè, boh, io ho sentito certi discorsi da questa gente, adesso stavano dicendo che quel poliziotto che ha preso, ha sparato, non doveva sparare perché agita se c'è ragione, vabbè, da agitava, pigli una massa da pure con un colpo di massa alla televisione, la volta sento un pezzo. Ho spento perché poi vogliono creare audience, secondo me questa gente qua vuole creare audience, infatti quando ci vuole uno dietro, no, sa, disorragionendi, quando vado di un discorso, arrivi chi tu da ridu con un ciaffo vedo a tubetto, e torna di chi su è dito, a picchiare, ogni volta che parlo oggi vogliono picchiarti, vai già. E infatti dico sì, io la mattina quando accendo la televisione e guardo solo il pezzo del coso maestro, a chi da voi casini è la storia di Svezia, ma di Svezia, di Ugosu, del Montanale, la discorso. Ma cosa viene a futta a noi che si arrangiano in Svizzera, in chi si lo usci, da voi diciamo in Inghilterra la contessa di Guido perché quando era giovane con quello là che era morto in prigione, torra, ma cosa viene a futta a noi, ma se non devi trafiggere bene dalla sola. Cioè nel senso che se invece parlano dell'Italia, dell'andamento, di padrini di subalesi in Sicilia, di Stefranelli, di roba che interessa a noi italiani, ma cosa ce ne frega a noi di tutto il casino che soffrende da chirurghi? Ma va la storia di Trump, che la comunità europea o che gli americani l'hanno bruciato il gozzo dei dati ed è del continuendo che ne ha cavato una careggi che dice di dare dei vipani a tutti i nonni per venire di nani, per venire durani di nani. Ma cosa se ne affutta a noi che sono affari verdi della comunità verdi, dello Stato verde? Parlaci dell'Italia, di come stiamo andando in Italia, di come stiamo vissuto i noghi e di come stiamo andando in tutto l'andato. A chi vanno in ragione? Che adesso in televisione chi sulla zanzara, che la capocca l'ha fatta a pezzi ai Maranza e a chi di all'altro. Questa è una cosa, che tutto questo susseguisse, perché dall'accoglienza che hanno fatto tutta quanta questa gente, è ovvio che sono italiani sia che sono nati nobili, però di origine di cultura non sono di nobili, quindi dire chi dura ha detto ma io non lavoro, esco e rubo l'iPhone, esco col coltello, magari non faccio del male al ragazzo, però se vedo il padre lo minaccio perché il padre c'ha i soldi che è un benestante, cioè ma siamo buffonenti. E chi mi viene più gravato un M4 era più curto una fragassata di cartuccia a cambo, che io dico che non era avanti, manco loro gioco, manco per fare il dolore, perché no, non vanno bene queste cose qua in Italia, non vanno bene, sanno praticamente come si dice dissuasione di informatica, e quindi è inutile che tu mi fa vedere una sai cosa ma non andare a fare dare i video. Il governo nostro che abbiamo stesso, come hanno citato in televisione, c'è di delinquenza, sono destinati a polvere di stelle, ma forse hanno comprendo. Mica per muoia accese da lì, invece non fa bene nulla. E quindi mi avevo una bomba in busciacca tutti gli altri lì. Perché cioè, il discorso è che non lo slogo, noi siamo proprio indenni, perché a volte cioè, facciamo dei ragionamenti perché ci rifanno anche vedere, però se no tutto è un voto a perdere, a che tanto tu vuoi farlo di polvare e niente. Adesso c'era un paragrafo in internet dove diceva che l'agenzia delle entrate da, non so, da maggio forse, entra nei tabulati di ogni cittadino italiano per vedere il conto bancario, vedere se ha entrate extra e tutte queste entrate extra risultano reddito. Cioè, ma siamo buffonelli, diceva giù, una campagna con un desaibolo di mele, non mi posso vendere un chilo di mela, se no sto può vendere abusivo. Cioè, ma siamo buffonelli, non vogliono ricomprendere. Stanno, beh, ti vogliono portare a fare l'abusivo, perché dice mi controlli troppo, quindi proprio l'abusivo sì. No, ma a me non interessa, a me se mi va bene i controlli, signore. Basta prendere e ricevere solo lo stipendio. Dice no, ma ti devo fare bonifico, no, da sapigli non mi va bonifico, fa cari dai. Io ho i soldi che è anche dei lavori extra, sempre contanti. Dice, ma ti posso fare un bonifico? No, tu bonifico non me ne fai. Io il bonifico ricevo solo stipendio, diciamo, dalla vita dopo lavoro. Poi se mi faccio qualche lavoro extra, dice, ma ti devo fare il bonifico perché no, allora ti posso un lavoro. No, a me mi paghi in contanti. Mi paghi in contanti e l'edina rimane a casa mia. Mi riprendo come ti voglio io, devo dare ragione a nessuno, ma proprio a nessuno, eh. Io prendo, ti do il coso, ti faccio vedere quanto ritiro di stipendio, ma. Perché poi io prendo quando devo fare delle cose, che, per esempio la spesa la pago col buon, perché ti pago la spesa col coso, con la carta, te la pago con la carta. In farmacia ho la carta, però se mi recupera che cosa, o devo andare a mangiare una pizza, o devo andare a mangiarmi la che cosa, o devo comprarmi, prendo, vado, prelevo e vado e compro quello che devo prendere. La passione è una motosega, vado, prelevo e la pago in contanti, non ne faccio vedere io non ho niente da nascondere, però piglio e fanno, che poi facciano i controlli. I miei movimenti sono spesa, gasolio e farmacia. Farmacia, spesa, gasolio, ma farmacia nel senso a che cosa parlo di gabuli, di cose così. Quando devo fare qualcosa in farmacia prendo e pago con la carta. Se no spesa e gasolio e bollette. Bolli auto, bolli dei bolli, bolli dei mezzi. Quello lo pago col bonifico, lo vedi. Anche perché i bolli, le contravvenzioni, queste cose qua, no? Bisogna sempre avere una tracciabilità oltre la ricevuta di pagamento. Quello lo pago veramente con la carta. Tutto. Dice, vuole pagare in contanti con la carta? No, paga con la carta, che così ho due riscontri. Ho quello della banca e la ricevuta che mi lasci tu. A chi si sono capace da 6 anni, se mi besi, se mi scendani, no? Dice, ma lei deve pagare questi bolli, no, esatto, un attimo, va giù il bonifico, va tal di è quello la cifra che ho pagato, è quella lì, quindi devi fare il controllo e risulta tutto, perché poi può capitare che perdi anche le ricevute, no, mentre il bonifico rimane sempre la ricevuta bancaria, e si attacca nel dramma. Volete che paghiamo la carta? Ecco che paghiamo la carta. Però le cose che interessano a me, quando le visi, me ne hanno il ristorante, me ne vado, non ci vado mai. Però quando vado e prelevo un paio di scarpe, prelevo i soldi e le pago in contanti. È così, purtroppo è così. Vogliono portare la gente a fare queste cose. Poi se mi chiedono perché è prelevato, perché mi piacciono i soldi, mi piace toccare i soldi con le mani. ma e mi piace toccare i soldi con le mani, i soldi sono i miei e mi piace toccare i soldi con le mani. Sono un appassionato di denaro, mi piace toccare, sentire il tatto del contante, quindi vado e prelevo. Mi guarda il contrario. Ehi, è vero Gabri, è vero, perché certe cose bisogna pagarle con la carta, almeno registrato e non fugge niente. Il discorso però è, siccome ci sono tanti giovani che non hanno lavoro, quindi c'è chi va al mare, c'è chi va in campagna, da si va a girare sul razzo e lo pagano in contanti. Però ai tempi di oggi devi avere un conto in banca per determinate anche altre cose, quindi se quelli vanno poi a versare questi soldi c'è un casino e gli dicono ma io, il discorso è questo che loro vogliono speculare, compreso mai, cioè uno non è più libero di andare a farsi una giurata, un extra per conto suo, fa momenti sovisti, no? Perché c'è chi magari se li tiene a casa i soldi, però se c'è il conto in banca e per esempio raggiungi, ti raccimo di cosa ne so, 500 euro, dici beh adesso me li inverso, in banca, ce li ho in banca, magari piano piano me li prendo a 20 euro, a 20 euro e vado bene così. Il discorso è quello, che se uno lavora di proprio conto, come questi giovani che ci sono adesso, io ho un paio di amici che non hanno lavoro e se ne vanno al mare a fare magari qualche polpo, qualche pastella, lughi a gattani e vivono la giornata di così, anche se magari prendono qualche pesce che se lo cucinano e che mangiano di proprio dal pescato loro, però se vanno a venderlo e poi vanno a versare i soldi per avere un conticino in banca, perché secondo cosa fai ci vuole il conto in banca per forza, è un casino niente, cioè mentre gli invece che arrivino, cioè gli dati gli dì dei miracoli e la servizio è lì. La Mussolini e se tu noti se ti giri in Facebook e se mi ha dato poi a se canzonano qualcuno con l'inno di Falcetta Nera, qualcuno cioè non lo so, che vera brutta me una battaglia di Mussolini a tutti canti, a vedere era abbassato lo hijo. Perché sì, hanno fatto quello che hanno fatto, però hanno fatto anche del bene, perché l'umane non lo viene mai mancare nessuno e cucava addosso, tutto in linea lungo. E quando c'erano tre volte le davano a chi ne aveva bisogno per usufruire del lavoro e di piantare e di poter vivere. Ah va, è un casino nido, è un casino nido che tu dai se ne agli caienti, gli arrivini e tu ti mi stai cucando sotto un ponte e chi rendi va lì fare i garrini. Aio, ma stiamo scherzando, c'è quello che dà fastidio da una parte, è ovvio che chi è agiato, chi è un po' più sta bene, va bene così, e poi mi fai vedere in televisione che quello è andato a farsi una vacanza in cosa ne so, Valle d'Aosta, ha speso 20.000 euro perché doveva andare poi alla spa, rilassarsi, doveva farsi la sciata, doveva farsi la magnata e lì lui cazzo di... Non lo so perché fanno vedere queste cose da voi, esci nel caso di tutti i migliori, ci viene in casino e vanno in ragione. Ma che cosa un attimo? Questo bistino che hanno fatto vivere di 22 anni, che ha detto che lui è andato a farsi la vacanza da 20.000 euro, che ha detto che faceva il venditore di auto di lusso, ha detto che lui si è creato tutto da solo. Fa un raggio. Tu magari sei nato in una famiglia agiata, hai avuto la valaribile a culo, chissà che giri sotto ci sono e c'è il tuo guadagno, ma non devi andare in dire in televisione che tu ti fai le vacanze da 20.000 euro quando vera niente in che non fa un pezzo di bani e non fa una pulita leva, ma siamo un fumento, ma forse è buono di tirarsi il gonfio e s'affarrane come se rigane la buca. Cioè hai visto che non mi dà un nervoso a me, a chi li stessi voci che curigosi come sono tutti giù, se abbiamo avuto una bicchiera la distanza di là della televisione. E allora, che fanno schifo, fanno uno, poi già io, uno ha i soldi, sono contento per lui, si fa la vacanza, meglio per lui, io non è che uno è geloso, però almeno sai che in Italia c'è questa situazione, tu giornalista deficiente, non puoi invitare certe cose per fare audience, perché quello è audience, dice, ma noi dobbiamo far vedere anche l'altra faccia della medaglia. No, tu vuoi creare audience, vuoi creare disagio, perché quello lì che va a farsi la vacanza a 20.000 euro la può fare benissimo, adesso i soldi sono i suoi, lo può fare benissimo, però so affari detto e non lo devi neanche invitare, perché non lì per creare audience, per avere visualizzazione, per avere cosa, o viene per far vedere che, che fa la bella fritta, però telegiornali e programmi non bisogna mai capitare, perché a me mi stanno facendo solo schifo, già. Mi sto facendo solo schifo. E con questo passaggio io chiudo, Gian, chiudo che metto a scaldare la roba, così che sono per arrivare, e da bui mi ricompongo e si va a fare questi lavoretti, dai. Ci riascoltiamo stasera già, se coincido, altrimenti a domani. Buon pranzo a te, a QRA familiare, e buon proseguo di giornata. Salutami a Franco quando mi intendi. Dai, aggiornami quando arrivano quelle bobinette, già. Ci sentiamo alle flussi. Ciao. Ehi, Gavi, altrettanto, dai. Buona ricarica, buon pranzo. Sì, tra Franco rimando i saluti e niente, poi se magari coincide stasera sul tardi anche con la radiolina c'entra fino, ogni tanto entrava, vabbè non c'è nessuno, no, tutti travati nel divano siete, no, vabbè allora chiudo tutto e mi seguo. Va bene, dai, ciao Gavi, buon pranzo. È tutto, va, già ci sentiamo, ciao Gavi, ciao. Ciao già. Ciao.